fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Di nuovo in diretta, buonasera ancora, sabato 2 giugno 2018, un altro sabato sera al convento di Lonato che stiamo passando in compagnia dei vari festeggiati di questa lunga serata, ormai nottata, e siamo in compagnia di una eminenza, quindi dobbiamo rivolgerci a lui con la... bravo, giusto, vedo che fai il gesto che lo contraddistingue, della croce, bravo, dobbiamo rivolgerci quindi a questa persona col dovuto rispetto, con la dovuta eleganza, perché abbiamo con noi, presentati. Buonasera, buonasera a tutti, sono Fra Luigi. Oh, Fra Luigi, Luigi, che non è... in, cioè, nel senso, è separato, non è Fra Luigi, è un nome Fra, unico, è Fra, Fra Luigi. Frate Luigi. Esatto, derivante. Fra Luigi da Verona. Fra Luigi da Verona, ah, suona anche bene. Se lo dici un po' di volte potrebbe diventare quasi credibile, Fra Luigi da Verona. Da Verona con tutta la sua prole. Però addirittura, però c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che stona in questo. Prima della vocazione. Ah, ok, ok, ok, giusto, giusto. Diciamo che no, non si è divertito molto a vedere quanti siete. No, assolutamente. Diciamo che si hanno... In caso non sei neanche impegnato. Esatto, esatto. Non sei neanche impegnato tanto, oppure ha dimenticato di comprare una cosa fondamentale per far sì che poi non ci foste. Ma perché... no, ma Fra Luigi è contro Luigi la chiesa. Disco non sei gli anticoncezionali, vero? Oppure attenzione, potrebbe essere un altro il motivo, potrebbe essere che a un certo punto, rendendosi conto dei danni che faceva nell'umanità, ha detto: facciamo una cosa, io mi fermo, prendo i voti, così sono sicuro che non faccio altri danni. Hai perfettamente ragione, dopo l'ultimo mi sono fermato. Nove successi. Esatto. Alla prima ho deciso di sposare la chiesa, per quello. Esatto, esatto. Ho deciso di sposare suora Cristina. Ah, addirittura, ah, quindi comunque l'amore non ti è mai mancato anche dopo la vocazione. Sì, anche perché lui segue la parte del... quello che ha vinto The Voice, degli evangelisti, quindi no, che protestano. No, è giusto, è giusto. Fra Luigi protestante. Fra Luigi protestante, addirittura. Anche perché ha fatto due calcoli, ha cominciato a vedere che serviva una casa bella grande per contenerli tutti e anche le spese stavano aumentando, quindi ha detto basta. Quando poi mi sono accorto che la famiglia si stava allargando, poi ho deciso di mandarlo, esatto, per la sua strada. Ah, ok, quindi sei comunque, non sei un papà chioccia. No, ognuno ha preso la sua retta via. Bravo, bravo, bravo, e tu hai preso la tua. Sì, io ho preso la mia, ho deciso di mettermi anche io sulla mia retta via. E tra l'altro tutte mamme diverse, tra... Sì, professionista, un professionista vero. Un vero campione, un professionista vero. Modestamente. Beh, inutile essere didascali, ci avrete capito che stiamo parlando di Fra Luigi perché porta una tonaca marrone, quindi che lo contraddistingue chiaramente per il suo abito, tra l'altro corredata di Tao e di cinturino bianco, quindi cordoncino tutto d'un pezzo. Aspetta che non si può notare. No, ha le scarpe, guardavo i sandali, guardavo se aveva i sandali. Ancora qualche vizietto mentre c'ha il buchino lì. Ah, ok, ok, è una presa d'aria, è una presa d'aria. La divisa estiva, allora. No, ok, ok. No, per contenere i danni anche qui che potrebbe fare. Allora, Fra Luigi da Verona, che ha avuto questa fortunosa intercessione da parte di qualcuno più in alto di lui di poter convolare a nozze, giusto? Chi sarà la dicevi prima Cristina. Cristina, da dove, da che parrocchia proviene la signorina? Anche lei, Verona, Verona. Quindi immagino vi siete conosciuti tra un vespro e l'altro. Bene, bene, bene. Di convolare a nozze il 23 giugno a Santa Anastasia a Verona. Ah, bene, bene, 23 giugno. Tra un convento e un altro. Ah, addirittura, addirittura. Magari confessandosi proprio a vicenda si sono conosciuti ed è andata così. Abbiamo approfondito la conoscenza. Ah, ok, bene, bene. Ed è tutto in regola? Avete avuto il via libera papale? C'è la bolla firmata? Tutto a posto, la bolla è a posto. Tutto a posto, no, perché... hanno accettato tutti i miei figli. Sì, hanno accettato? Sì, ma gliel'hai fatta conoscere a tutti insieme o uno per volta? No, tutti insieme. Tutti insieme, hai fatto una grande riunione in famiglia. Accettiamo. Sai, diciamo che tu hai fatto un X Factor allargato. Perché loro si sono seduti tutti e 9, 8, 9 sulle sedie. Esatto. Noi sì. Sulle sedie, l'ha presentata l'entrata, ha fatto, cosa ha fatto? Giocoleria, ha cantato, cosa ha fatto per farsi accettare? È arrivato e io ho detto: questi sono i miei figli. Ah, tu hai presentato loro a lei, non lei a loro. No, loro a lei. Sì, sì. E molto. L'abbiamo testato tutti assieme e effettivamente vale. Testato piano. Suona malissimo così. Siamo fermati a fare un aperitivo. No, ok, ed è andata. Luigi ci racconterà anche come è avvenuta questa proposta di matrimonio. Ci può stare, perché no? Dici un po'. La proposta è venuta di sera a Borghetto. Borghetto sul Mincio. Provincia di Verona. La luna sul Mincio. Tra una preghiera e un'altra. Tra un rosario, un padre nostro. È uscito l'anello. No, è uscito così, è uscito l'anello. Ha fatto in modo. Ho fatto il miracolo. Esatto. È esatto. È l'unico frate che invece del vino trasformato in acqua trasforma l'aria in anelli. Perfetto. Lui ha preso l'aria, ha fatto una reazione chimica e la trasforma. Ah no, solo in anelli, anche di. Perfetto. Pensa alla mafia come sarebbe contenta a riconoscerti se riesci davvero a trasformare in diamanti. Che mi sono trasferito per ora. Esatto, potrebbero approfittare di te per i loro loschi traffici. Ok, allora vuoi salutare qualcuno? Vuoi dire qualcosa? Cristina, un bacione. Lei è single, tra l'altro, se ti interessa. Sì, dopo la facciamo. Se qualcuno di voi è cubano, avete già una corsia preferenziale. Nessuno è cubano, ma voi vendetevi cubani che vanno bene. Chiaramente sono. Lei è cubano. Sì, vieni dentro. Tu venditi cubano, fidati okay. Del. Venditi cubano. Cubani. Dopo ci venderemo cubani. Dopo di dirlo. Scusate, ho interrotto il frate. Certo, ci mancherebbe altro. Uno a uno, educatamente, dite i vostri nomi. E numero di maglia. No, è un patriarca veramente tosto, Vai, educatamente incominciamo dal con il numero. Dal più grande. Io inizio. Monsignor Vittorio. Ma con il numero? Numero 10, Cioè, il primo che si presenta si è preso subito il 10 e ha detto, ragazzi, arrangiatevi voi. Da Davide Figozzi, con il numero 9, il falso 9 della compagnia. Cardinale Bordan con numero 8, il mediano. Ma che bello. Vai. Vaccariello Michele è timido purtroppo. È timido, ci sta, ci vuole il timido nel gruppo. Che numero? Zanoni. Fabiolone, numero 8. Si è doppiato, già lui. Va bene, ci sta. Michele Zanotti, terzino 2. Bravo. Il purificante. Matteo Perbellini, numero 5. Lui vale. Sta allargando la famiglia. E che in sala. E che in salotto al posto dei quadri c'ha i femori degli avversari. Appende femori. Se lo guardi bene è il pelato di Brothers. Sì? Ah sì, dici. È lui. E lui confermiamo anche per la dote. Però. Ne mancano due, aspetta. Massimiliano Narcisi, numero 11. Bravo. 11 come le. Valerio 5P col numero 5. Bravo. Bene. Aspetta, l'unica squadra che gioca senza portiere, benissimo, quindi. Allora, chi è nessuno si è presentato con l'uno. Il portiere sei tu, no? Io. Convocato. Va bene. Purtroppo Buffon si è ritirato, quindi. Beh, ma alla fine è sempre così, cioè i portieri nascono per quello, che non sanno dove mettersi. Vai in porta, para un po'. A giro. Bene, allora, frate, contento delle presentazioni? È tutto a posto? Oh, va bene. Allora, ragazzi, vi lasciamo andare a divertire e a terminare questa serata. E grazie a voi, grazie per averci allietato in questi minuti, aver chiacchierato con noi. Auguri al nostro Fra Luigi con la sua Suor Cristina. Cos'è? Suora, sì. A sto punto. Suor Cristina. Brava, Suor Cristina, bravissima Suor Cristina. Brava. No, assolutamente no. Buonanotte, ragazzi, grazie. Buonanotte a tutti. Ciao.